L'eco del silenzio. Silenzio. Un'idea di Lucia Caparrucci. Buongiorno a tutti da Lucia Caparrucci e benvenuti all'Eco del Silenzio, lo spazio di Radio Libriamoci Web dedicato all'informazione e al sociale. Da www.lastampa.it, Rossella, Maria e gli altri rapiti, del 25 febbraio 2012 di Flavia Amabile. Le storie di chi da mesi è prigioniero in un angolo lontano di mondo. Geppi Cucciari ha urlato il suo nome sul palco dell'Ariston a Sanremo e da allora tutti o quasi sanno chi è Rossella Urru, 29 anni, origini sarde, al lavoro come cooperante del CISP in Algeria. È stata sequestrata con altri due colleghi la notte tra sabato 22 e domenica 23 ottobre 2011 dal campo profughi di Assiraduni, nel deserto algerino sud-occidentale, dove i rifugiati Sharawi trovano cibo, acqua, cure, un popolo che da oltre 30 anni vive lì, protetto in esilio, vittima di una tragedia. Rossella, originaria della Sardegna, si è laureata in cooperazione internazionale a Ravenna. Da due anni lavorava in Algeria al progetto umanitario per il Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli. Per un mese e mezzo della sua scomparsa non si è parlato. L'unità di crisi del Ministero degli Esteri, già dalla notte del suo rapimento, aveva invitato tutti a mantenere il massimo riservo sul caso per non creare problemi nelle operazioni di liberazione. A dicembre, un video diffuso da un giornalista dell'AFP testimoniava che i tre ostaggi erano ancora in vita, nelle mani del Movimento Unito per la Jihad dell'Africa Occidentale. Dopo, nuovamente il silenzio. I genitori hanno aperto un blog, dove in tanti hanno iniziato a inviare messaggi. Ci sono molti amici incontrati tra una partenza e l'altra. Leggendo le loro lettere, emergono pezzi di vita trascorsa tra una partenza e l'altra, da una donna ancora nemmeno trentenne, ma con le idee molto chiare sulla sua vita. Maria Sandra Mariani è stata rapita più di un anno fa, il 2 febbraio, un mercoledì sera. Si trovava insieme al suo gruppo a 250 km a sud di Janet. Si era allontanata, scortata da due responsabili del tour, per comprare del cibo, quando si è trovata di fronte degli uomini armati. Maria Sandra è una profonda conoscitrice del deserto algerino. Nei suoi 53 anni di vita ha trascorso da quelle parti molto tempo, ma non c'è stato molto da fare, quella è una zona difficile non lontana dal Mali, una roccaforte di Al-Qaeda nel Maghreb. In questo lunghissimo anno di attesa per la sua famiglia a San Casciano di Valle di Pesa, in provincia di Firenze, i rapitori hanno diffuso due video. Nessuno lo sa con certezza, ma Maria Sandra Mariani dovrebbe essere prigioniera in un paese del Sahel, riferiscono fonti del governo del Mali. Franco La Molinara è originario di Gattinara, un paese di 8.000 abitanti in provincia di Vercelli. Ha 47 anni ed è stato rapito il 12 maggio, un giovedì sera nel nord-ovest della Nigeria, vicino al confine col Niger. Da 9 mesi, a Gattinara, attendono notizie la moglie Anna, che lavora all'Accademia dello Sport, i figli e il fratello Bruno. La Molinara è un tecnico, si trovava in Nigeria da circa 10 anni, lavorava per la società di costruzioni Stabilini Visinoni Limited ed era impegnato nella costruzione di un edificio della banca centrale a Birnin Kebbi, capitale dello stato di Kebbi. È stato rapito insieme a un ingegnere britannico che lavorava per la stessa società. I rapitori hanno fatto irruzione nell'appartamento dove vivevano la Molinara e il suo collega e li hanno sequestrati senza prelevare un'importante somma di denaro in contanti che si trovava nell'edificio. Ultimo, in ordine di tempo, finito nelle mani dei sequestratori ancora non liberato, si chiama Giovanni Loporto, 38 anni, di Palermo. È stato rapito insieme ad un collega tedesco a Multan, nella parte pakistana del Punjab, facendo entrare per la prima volta il Pakistan nella lista dei paesi pericolosi per i sequestri. Si è laureato alla London Metropolitan University e alla Thames Valley University. Ha lavorato come project manager con il gruppo volontario civile, con CESVI, Fondazione Onlus, Coopi Cooperazione Internazionale. Quindi è passato a collaborare con l'ONG tedesca Aiuto alla Fame nel Mondo, creata nel 1962 sotto la protezione e il sostegno della FAO. Era arrivato in Pakistan nell'ottobre scorso per partecipare alla costruzione di alloggi di emergenza nel sud del Punjab. L'eco del silenzio. Apriamo ora una ampia parentesi interamente dedicata al lavoro, o meglio, ai lavoratori. Da www.eilmensile.it vi do lettura di due post di Il Diario del Binario 21. Giorno 79, Milano, 24 febbraio 2012. Stamattina esce Soliviero. Lo capisco. 79 giorni sono 79 giorni. È sceso sereno e credo che abbia fatto la scelta migliore. Il corpo ha delle esigenze. E noi, sacrifici umani, non ne vogliamo. L'importante è che il presidio vada avanti. Lui vuole questo. Noi tutti lo vogliamo. Giù sono in tanti. C'è sempre qualcuno che potrebbe salire. Non so se accadrà. È un sacrificio davvero grande. Se qualcuno se la sente, qui di spazio ce n'è. In fondo, lottiamo tutti per lo stesso obiettivo. L'unica cosa di cui sono certo è che, solo in compagnia, io sono convinto a non mollare, ad andare avanti. Spero che il fisico me lo permetta. Prima di tornare a terra, Oliviero, mi ha detto di tenere duro. Non ha aggiunto altro. A lui non dispiaceva restare qui, avrebbe continuato per altri 3 mesi, scommetto. È uno che crede nella lotta. Solo che ha delle esigenze personali e una figlia di 8 anni che vive con i nonni. Non poteva restare qui ancora per tanto tempo. E ha fatto bene a scendere. Oggi ho un solo pensiero. La scelta di Oliviero non deve influire sulla forza della protesta. Ci sentiamo domani, Stanislao. Giorno 80, Milano, 25 febbraio 2012. All'1 di ieri notte è salito Rocco per continuare questa lotta. La sua decisione rende questa meravigliosa giornata di sole ancora più bella. Il nostro umore è alto quando il tempo è sereno. Ripenso a Oliviero, ripenso al fatto che la sua discesa era quasi inevitabile dopo 80 giorni al freddo. Ha passato quassù anche Capodanno. Non è incredibile pensare che siamo in Italia? Rocco è un altro lottatore, ha la tempra dura del calabrese. Per tutti questi mesi è stato al nostro fianco, aiutandoci in tutto e per tutto. Conosce benissimo le esigenze di quello che ormai noi chiamiamo il presidio del cuore. Ci sentiamo domani, Stanislao. E sempre da www.elmensile.it facciamo un breve riassunto. Protesta Servirail. Rocco sale sulla torre, del 25 febbraio 2012. Un nuovo licenziato di Servirail sale sulla torre faro della stazione di Milano Centrale. Si tratta di Rocco Minutolo, di 28 anni, originario di Oppido Mamertina. Il ragazzo, da 2 anni in Servirail, ha preso il posto di uno degli uomini simbolo della protesta, Oliviero Cassini, sceso nella prima mattina di ieri dopo 79 giorni di permanenza sul traliccio vicino al binario 21. Minutolo è il 5° lavoratore di Servirail a salire sulla torre, dopo Carmine Rotatore, Giuseppe Gison, Oliviero Cassini e Stanislao Focarelli. Altra micro parentesi nella parentesi lavoro. Da www.eilmensile.it del 24 febbraio 2012. Italia. Fiat non vuole in fabbrica i 3 operai reintegrati con l'articolo 18. L'azienda guidata da Sergio Marchionne ha comunicato con un telegramma che non intende avvalersi delle prestazioni dei 3 lavoratori dello stabilimento Fiat di Melfi, licenziati ingiustamente e reintegrati in base alla sentenza della Corte di Appello di Potenza. Lo ha reso noto uno degli avvocati della FIOM, Lina Grosso, che ha commentato: sarà fatto di tutto per riportare al lavoro i 3 operai, anche agendo in sede penale, perché la Fiat, come al solito, non rispetta le sentenze. I 3 operai percepiranno comunque regolarmente gli stipendi maturati fino a questo momento e quelli successivi alla sentenza di ieri. In particolare, per quelli maturati, sarà corrisposta loro la differenza tra il sussidio di disoccupazione e il salario dovuto. E concludiamo con la mobilitazione che sta prendendo piede contro le dimissioni in bianco. Sempre da www.eilmensile.it, no alle dimissioni in bianco, la mobilitazione, del 24 febbraio 2012. Ridateci la 188. La 188 è una legge, quella che impediva un ricatto nascosto quanto diffuso, al momento dell'assunzione una firma su una lettera di dimissioni con data lasciata in bianco, da riempire al momento opportuno. Quando la lavoratrice è in gravidanza, durante una lunga malattia, persino quando finiscono gli incentivi fiscali che hanno sostenuto l'assunzione. 188 firme per la legge 188 è lo slogan con il quale è partita, ieri, il primo passo, la mobilitazione per riavere quella legge, approvata grazie al lavoro trasversale delle parlamentari nel 2007 durante il governo Prodi. È stata, non per caso, abrogata dal governo Berlusconi. E le lavoratrici e i lavoratori si sono trovati nuovamente soli a dover gestire il ricatto. O firmi o non ti assumo. E quando ti licenzio, usando le tue finte dimissioni, tocca a te l'onere e il peso di una denuncia contro il tuo datore di lavoro, con le immaginabili conseguenze. L'iniziativa per la 188 è partita da 14 donne che hanno incontrato di recente la ministra Fornero. chiedendole l'immediato ripristino della norma che peraltro è a costo zero, in quanto consiste in un registro numerato di moduli per le dimissioni scaricabile dalla rete, incontro interlocutorio, dal quale non è emersa una soluzione a breve termine. Abbiamo capito che la soluzione dobbiamo strapparla, spiega una delle promotrici, Marisa Nicchi. Da lì la raccolta di firme. 188 donne per la 188. Sotto una lettera, appello, rivolta a Monti, Fornero e ai parlamentari. Da lì la mobilitazione, che ieri ha coinvolto i sindacati, le ACLI, le donne delle professioni e delle associazioni, che in molte città hanno portato alla prefettura locale l'appello per ottenere subito norme efficaci contro le dimissioni in bianco. Da oggi, una petizione che si può sottoscrivere in rete. La questione delle dimissioni in bianco, continua Nicchi, è quella che meglio mostra la contraddizione tra vita e lavoro. Non a caso, uno dei principali utilizzi è la gravidanza della lavoratrice. Secondo l'Istat, 800.000 donne lasciano o sono costrette a lasciare il lavoro ogni anno per la nascita di un figlio. L'eco del silenzio. Silenzio. Concludiamo infine per questa settimana volando dall'altra parte del globo, per la precisione in Colombia, da www.elmensile.it. Colombia, in lotta contro Enel, del 25 febbraio 2012 di Stella Spinelli. Nel dipartimento dell'Huila, cuore delle Ande, lungo le valli dei fiumi Magdalena e Pez, da tempo si sta vivendo l'ennesimo dramma umano, sociale e ambientale, provocato dall'ennesimo sopruso delle multinazionali energetiche. Questa volta, al centro di tutto c'è Engesa Impregilo, una compartecipata Enel, che ha ottenuto dal governo colombiano di poter costruire un'immensa diga sul grande fiume Magdalena, nell'ambito del progetto idroelettrico Il Quimbo. Sorgerà a 150 metri sul livello del mare e sarà lunga 635 metri, alta 66 e profonda 410, con un bacino idrico di 8.250 ettari, che dovrebbe generare a pieno regime un'energia media di 2.216 gigawattora nell'anno, utile a fornire l'8% del fabbisogno energetico colombiano fino al 2034. Le trattative iniziarono 4 anni fa e la prima pietra è stata posta da un anno. Da allora, la gente del luogo non si è mai arresa e, costituitasi in un comitato, si è organizzata per resistere con ogni mezzo pacifico a questo sopruso. Per i contadini, le popolazioni indigene della zona e i pescatori, questa diga significa sfollamento e povertà. Significa sradicamento da un territorio perfetto nel quale vivono da sempre, coltivando, allevando animali e pescando nei fiumi. Si tratta infatti di una riserva forestale protetta che ha una biodiversità molto ricca. Per adesso sono 800 le famiglie che hanno dovuto lasciare casa e campi coltivati per far spazio ai primi lavori dell'Impregilo, ditta appaltatrice di Engesa, il tutto dietro la supervisione dell'esercito colombiano, messa a guardia degli interessi delle multinazionali contro la sua stessa gente. A niente sono valse le marce, le proteste, le petizioni. Il governo ha proceduto ad espropriare le terre per darle allo straniero, senza prevedere un piano efficiente di reintegro per le famiglie sfollate. Sono già state costrette a chiudere 25 aziende di caffè e nessuno ha dato loro un pesos di risarcimento. Il tutto in cambio di 3.000 posti di lavoro per costruire l'impianto e di solo 40 per poi mantenerlo attivo. E a farne le spese non saranno soltanto gli uomini, ma l'intero ecosistema. Inutili sono state anche le richieste avanzate dalle popolazioni indigene di incontrare Engesa basandosi sulla Convenzione 168 dell'IGO, ratificata dalla Colombia nel 1989. Si tratta di un accordo che riconosce i diritti ancestrali degli indigeni sui territori che abitano da sempre, e che dunque vincola ogni governo a interpellarli prima di qualsiasi azione su tali terre. La multinazionale ha risposto che l'incontro non può essere preteso, in quanto contesta la legalità della concessione della licenza e non il mancato rispetto delle norme previste dalla licenza stessa. In poche parole, questa gente è stata tradita in primis dal governo, che ha svenduto terre e risorse preziose senza coscienza e calpestando i diritti dei suoi stessi cittadini. Il fiume Magdalena è dunque destinato a essere deviato senza ritorno. Engesa è andata avanti imperterrita, tentando di trovare un accordo diretto con la comunità senza però concedere nulla. Non trovandolo, ha tolto ogni maschera, mostrando le sue reali intenzioni. Ha sguinzagliato l'esercito in tenuta antisommossa, inviato da Bogotà, ed è stato il caos. L'unica risposta alla resistenza e disobbedienza civile non violenta, guidata da Soquimbo, è stato il brutale sfollamento ordinato dal governo Santos nei giorni 14 e 15 febbraio. Sono stati cacciati tutti gli abitanti dei villaggi nati decine di anni fa sulle rive del Magdalena, nonostante siano protette dalla legge 1242 del 2008, che stabilisce come i 30 metri lungo ogni lato di un corso d'acqua sia un bene di uso pubblico, inalienabile, imprescrittibile e intoccabile. Hanno raccontato l'associazione. Il violento blitz è stato concordato dal governo e dalla Ingesa contro contadini e pescatori inermi che vogliono soltanto difendere il fiume, la loro fonte di vita. Per sfuggire alla retata e ai lacrimogeni, qualcuno si è persino buttato in acqua, ma i colpi lanciati a salve hanno ferito molta gente. Il governo ha così imposto con forza la sua decisione di andare avanti con il progetto, ricorrendo alla violenza pur di proteggere gli affari della multinazionale, calpestando i diritti di gente piegata dalla povertà. È stato anche impedito a osservatori internazionali in difesa dei diritti umani di accompagnare questa gente e di proteggerla. Nonostante tutto, continueremo a resistere, promettono dal comitato, e non cederemo. Difenderemo il nostro territorio, il Magdalena e la dignità di noi cittadini aggrediti dallo sfollamento di stato criminale della Ingesa. La deviazione del fiume, infatti, è stata ulteriormente posticipata dall'azienda e fissata per il 6 marzo, proprio a causa della paralisi dei lavori causati dalla protesta di Asoquimbo. E nel frattempo, la mobilitazione non finirà. Il capitale della società appaltatrice Ingesa è formato dal 37,5% da Impresa d'Energia de Bogotà, per il 26,9% da Impresa Nacional de Electricidad e per il 21,6% da Endesa, la multinazionale spagnola dell'energia acquistata nel 2008 dall'Enel. L'Enel, ente nazionale energia elettrica, è per il 31% di proprietà dello Stato italiano. Nettamente azionista di maggioranza, visto che il secondo azionista, la banca BNP Paribas, non arriva al 3,5% delle azioni. Anche per questa settimana è tutto, da Lucia Capparrucci un saluto e l'augurio di frenetiche letture. I contenuti di questa puntata sono disponibili all'indirizzo ecodelsilenzio.blogspot.com. L'eco del silenzio. Un'idea di Lucia Capparrucci.